diamo fuoco al casco. Malato, malato qui, sono in gatto, lo vedi, a chi l'altro non sono morto, tutto quello a due ruote è morto in casa mia. E poi adesso ci sono scooteroni che hanno la ciclica di moto da corsa, figurati, tipo il T-Max ha tutta la ciclica di una moto da corsa, la tenuta in strada, eccetera, eccetera, le 650 della Burgo, ma è lo stesso. Ha la ciclica di moto da strada, da corsa, proprio. Ciao Eugenio, ciao, buonasera. Chi è? Ciao già, io. Qui. Ciao Luca, ma oggi sei uscito? Ciao, sono stamattina, no? No, ma dico ma di nuovo, poi stamattina mi sono svegliato, no? Mamma mia, metti intasato al massimo, vero? E vabbè, così almeno stacchi un po' la spina. Cavagava. Riprendi Eugenio, dove sei? Ragazzi, se io ti sento. Che antenne hai messo sul camper? Ah, non l'hai cambiato, ho capito. No, adesso già ti sento. Poco fa è che non capivo, chiedi perché ti sentivo lontano. Adesso già ti sento. Avanti Marco. Marco, ma niente, sta facendo il pranzo. Claudio, riprendi tu. Luca. Sveglia. Ciao, attimino. Abbiamo un errore qua. Ehi, tu già non sei uscito per niente. Cosa? Non sei uscito per niente. No, io c'avevo gente a casa e non potevo uscire. Sono andati via da poco. Erano a pranzo e quindi sono rimasto a casa. E cosa esci? Quando è così non puoi uscire. Dopo alla fine non ce la fai più, non vedi l'ora che si tratta, niente, mamma mia. Ero stanco, non per male, ma ero molto stanco. E avevo voglia anche di fare un pisolino, ma invece non ce l'ho fatta. Marco Condor, cosa stai? Stai pranzando. Marco si è spostato di colpo. Chi è rimasto su questo canile? Però più un giro ci sei. E avevamo fatto tutti i fuggiti di adesso. E cos'è in giro oggi? No. E tutta gente che ha scooteroni, guarda, non è per quello. Perché Claudio ce l'ha, Marco ce l'ha, io ce l'ho, Luca ce l'ha, e quindi sono tutti scooter e scooteroni. Sì, di radio già ti ascolto bene, il segnale è un po' bassino, ma sarà 5 di segnale, 4. Là. Però la radio già l'ascolto bene. Sì. Sono scooteroni che fanno 160 km orari, a me mi basta. Già lo so, sì, ma ci sono i pro e i contro, se uno lo deve tenere fuori, la plastica va meglio che la lamiera che si arrugginisce. Ciao oggi dai, buon lavoro, ci sentiamo. Prego. Ciao Gianni Franco, mi dice che sta uscendo questa fase di radio. Ciao Gianfranco, mi senti? Ciao, no, io sto uscendo bene. È molto ingannevole. Com'è? Normale, bassa, cupa, media? Come ti sembra? No, è una bella radio presente, non è bassa. Va bene, secondo me. È la tua voce, lo sai benissimo, però la radio non è brutta. E adesso c'ho la voce brutta, ma non ci posso fare rimedio lì. Non trovo i tre primer, sono un po' complicati, tu mi devi aprire. Guarda adesso se c'è qualcosa in peggio, o in vita. Ecco, vediamo un po'. Che è successo? È troppo esagerata, addirittura è satura. Devo dirti la verità, non ho visto nessun cambiamento. Ah, è quasi impossibile. Cioè, così non hai visto il cambiamento. Ecco, attenzione, adesso premo il pulsante, vediamo un po'. Ecco, adesso premo un po' pulsante, non so se sia variato qualcosa, adesso lo disinserisco, ecco qua, disinserisco, è successo niente? Sì, è aumentata il radio. Fino alla distorsione o una distorsione a prescindere? No, non distorce, non distorce, però diciamo che è meno fastidiosa, più bassa, dai, meno fastidiosa, è troppo rimbombante forse. Ah, ecco, era questo che volevo, quindi così è più tranquillo, là, e non bisogna alzarlo più tanto. Ok, non ci vado una manata, un guatto, sì, un guatto. Ok. Era stato pieno di gente qua, poi di colpo sono spariti tutti. Avanti, sei rimasto qualcuno, qualche superstite. C'è la Marco Porto, Claudio. Di colpo ho fatto il tabù, come è successo che cosa a me? Che non sentivo più nessuno. È capitato anche a me ieri, sto parlando praticamente da solo, poi altri infermieri alla fine. Va bene. Cosa hai fatto perché Gianfra? Qualche cambiamento? Sì, praticamente c'era un microfono, c'era un microfono buttato qua, che è grande, no? Ma è più grande del... diciamo anche un pochettino più grande del... del coso lì, del, si chiama L60 ed è un vecchio MD1 semi tutto praticamente toccato eccetera eccetera, quindi ho recuperato il microfono dato che dentro qui non c'è niente, quindi ho recuperato il microfono e pensavo che funzionasse male perché sul monitor non si capisce un tubo di quello che si sta facendo. Non serve praticamente a niente la funzione, e quindi io, se mi ci va bene, dovrebbe aver recuperato, anche se un po' ragione, ma sembra d'alta qualità comunque. E a bassi, a molti bassi, comunque è un microfono abbastanza potente, abbastanza presente, ecco, il microfono, a molti bassi. Però è bello, se a me piace, a me perlomeno piace questo di gusti, a me piace. E vabbè, hai visto, la roba mutata si recupera ogni tanto. Sì, purtroppo bisogna sempre guardare nel repertorio tutta la roba che c'è da recuperare. Boh, adesso c'è la parte più difficile, mettere dietro l'attrezzo. Ma per caso, infatti, questo venne, non ti diciamo, il 50-55, era un Intec. Speriamo che quello di quello sul microfono dovrebbe andare. Speriamo un po'. Un attimino che attacco l'Intec. Perché come l'attacco Intec è diverso? Non è quattro poli. No, 5 poli, io ci ho fatto un coso, una particolare modifica, ma questa mi sa che non va bene. 5 poli, no, 4 poli. 4 poli, sì. Devo passare la collegata là. Non ci capisco una mazza, c'è un caso di no, che 4 non è basta, no? Un obiettivo che mi profondo dall'altro. Vabbè, quando ne hai troppe di cose non ne comprendi nulla, no. Una volta mi chiamavano dall'apparato e andavo a rispondere all'altro microfono e non mi sentivano, per forza avevo sbagliato microfono, c'erano microfoni a tutto andare, alla fine mi sono accorto poi che stavo parlando col microfono dell'apparato che c'era sotto. Cosa c'è a fra? Ti chiamo con l'Intec. Sì, è proprio. Ma perché mi ricordi qual è l'antenna? Speriamo bene, questa è l'antenna, sì. E a fra, però devo dirti una cosa, molto molto più chiara questa la radio, eh. senza ombra di dubbio, molto più, l'altra c'ha troppi bassi. Adesso facendo confronto me ne sono reso conto. C'avevo ragione io, mi sembrava strano. Quella lì sembra un tamburo, giusto? È più corposa rimane, più grosso, più grossa come radio. Questa rimane più delicata, più chiara. Ho capito, si può mettere rimedio perché il modulatore c'ha anche bassi, gli alti, però bisogna un po' lavorarci. E lo sospettavo che questa era migliore. Sì, Gianfra, facendo il paragone adesso mi sono reso conto che questa è molto molto migliore, di gran lunga. La radio, cioè, ti cambia la voce, addirittura ti fa la voce bella. La voce bella. Quindi quella là era brutta dopo che prima, no? No, non brutta, rimane, te l'ho detto, grossa, corposa, una radio con molti bassi. Un po' quella di Claudio, dai. Non proprio, no. Rimane, quella di Claudio rimane più la radio da battaglia, però è chiara. Quella lì rimaneva più bum. Sì, eccessiva amplificazione, forse. Ma guarda. Sì, mi sa che c'è un microfono poco s'adatta. L'Intec che cosa c'hai di Intec? Quello solito, quello che uso sempre. Come era 5550, no 5500, 5500 HR, insomma fa quello dai. Ma è nuovo come modello oppure di quelli. Di quelli dell'alta guerra? No, sono programmi da computer. Cosa vecchia? È quello da 25 a 30. Ah, ho capito. No, va bene. A 30 arriva addirittura. Sì, a 30. Bene, dai. Di solito arrivano 29 qualche cosa. Separati qua. No, ma già si sente bene questo qua. Questo io lo preferisco, dico la verità. Che poi mi dimentico sempre i numeri degli apparati. HR5500, accidenti. Questo invece l'altro userà. Perché poi li confondo quando ho tante stazioni. Infatti ho girato il commutatore da queste antenne, no? Più vari amenicoli. Ma mi dimentico una, tanto sto senza antenna. No, io il commutatore proprio l'ho eliminato perché l'ho comprato nuovo e mi andava la lancetta della stazione di fondo scala. Qua c'è qualche corto, preso, controllato i fili, cambiato gli spezzoni e niente. Poi mi sono accorto che era difettoso il commutatore. Cosa ho fatto? Ho messo l'antenna diretta, uno in uno di stazionari, allucinante. Allora apro il commutatore nuovo, mi sto dicendo, ho comprato un paio di settimane prima. Ho guardato, non c'aveva nulla nella mena, tutto quanto, ho controllato, toccava tutto quanto, l'ho ripiazzato e non me lo faceva più. Dopo un po' di tempo di nuovo me l'ha fatta, alla fine poi ce l'ho buttata la mondetta. Sono ripassato sull'altro, sul, come lo chiamiamo, voce, l'antenna, cioè, perché lo voglio regolare, non è che perché era troppo basso di potenza, guarda, sto mettendo 3 watt, ha migliorato qualcosa o è sempre una tambullana? Ha migliorato parecchio. Ah, forse era... Come si dice, troppo bassa, no? Quando è troppo bassa la potenza magari c'è troppo di sviluppo e crea qualche problema. Ma quindi va bene. Prova a alzarla ancora se puoi. Ah, perché è bassa? Cioè volevo capire se era bassa o alta. Oh, diciamo che adesso è alta, va bene, però è sempre un po' cupa, ecco, c'è questo non so che di bassi, capito, in più. Deve essere la capsula dinamica, così la situazione la peggiora, guarda. Ecco, così la situazione tende a essere più bombante o più tranquilla. No, così fischia di brutto. Non conviene, sta innescando. Ah, anche adesso? No, adesso no. Tutta la miseria, è sensibile alla... però guarda anche come potenza che c'ha un picco un pochettino esagerato, così è. No, no, vabbè, perlomeno. Comprensibilissima, mi chiamo Fran, non ti mettere problemi, perché è comprensibilissima la radio. Lo so, ma se innesca, a me la roba che innesca, già me ne... non mi piacciono, vabbè. Però per mio scrupolo passo sul normale, non vorrei che fosse il preamplificatorino interno, che magari ci faccio l'esclusore, che si rompono le scatole, un attimino. Prima che ti faccia partire il modulatore. No, non sta più innescando comunque, si è innescata solo nel momento in cui più l'hai alzata, e basta, tutto lì. Ecco qua, adesso è il microfono tuo, quello normale. E prova, fai un passaggio lungo. Sì, detto anche a saponetta, in realtà è il palmare, no? Però il tuo, originale, ma che viene abbastanza bassino, la potenza, insomma, è 3 watt, giù di lì. Guarda le macchine. Allora, innanzitutto lo metto, si alzo questo, vediamo un po'. Ecco, così è successo qualche cosa? Non so se lo so. Ah, ecco, prima c'era, adesso non c'è, aspetta, rialzo il macchinino. Ecco, vediamo un po', com'è? 1, 2, 3, normale, è gasato, adesso è un po' gasato, ripasso sul normale, sperando che non sia troppo occupata con questo, ripasso sul normale e così è normale, tranquilla. No, così con questo qui va bene, dai, Gianfra. Meglio che con l'altro. Si adatta meglio con lo normale dell'altro, uia. L'altro rimane, non rimane chiara la radio, ecco. È troppo, c'ha troppi bassi. È presente quando una radio è un po' cupa, che fa bu bu bu quando parla. Così è bella. Conviene questo. Questo qua, l'originale, va che è un buon po'. Peccato però, cazzo. Forse il compressore interno del microfono che dà problemi. Perché a volte gli apparati dentro come ho detto sono un po' tirati per far funzionare bene il microfono normale, poi ci metti un amplificato che è casino. E così è. Però è sempre meglio l'Intec che scommetto. E vabbè, io lo preferisco. Poi a che ore sono? Le 6:30? Le 7:20. Ancora presto, è già bugio, no? Così fa. Quanto mamma Giuliana, non tocca svittare, ma mi tocca svittare, basta fare, dai neschi di rientro. E non è proprio voglia. Non oramai ci ho perduto il coso a fare questi lavori, mamma mia. Quanto è scocciante. È un lavoro giusto di divertimento, in fine a se stesso per passare il tempo. Poi però dal lato pratico non so quanto può. E beh, mi devo ordinare, le pizze, ma è presto ancora, non ci saranno. Ma penso che iniziano proprio quelli che iniziano presto e iniziano alle 7. Non ricordo male. No, ma non a portarle adesso, solo per ordinarle. No, a me mi interessano verso le 9. Le 9 per un quarto, dai. Prova, magari stanno facendo la pasta. Io adesso provo, perché poi magari non me la portano all'ora che mi serve, che deve venire gente a casa. E allora che mi serve non me la portano poi. Infatti. Oh, io anche la vita del microfono per tutti. Non lo resiste veramente. Caro mio, la vecchiaia è un casino. Non ci vedi, si perde le cose in cammino. Porca miseria. Vabbè. Chiama pure io, lo rimonto questo microfono, lo metto in diretta, vediamo un po'. Io ti stavo dicendo, sì, adesso provo fra un po', dai. Cosa stai solo? Aspetta a vedere se c'è gente qui. Avanti se c'è qualcuno sul 5. Marco, ci sei? Ma questo là sta facendo colazione, questo. questa è la pranzo. Intanto non lo fa stanotte. No, la cena. La cena la fa l'una. Il pranzo lo fa verso le 6:30, 7. E allora un pochino già migliorato, dai. E vabbè, questione di abitudine. E che praticamente escono, magari vanno in giro, ti passa il tempo, ma cosa ne accorgono? Anche a me qualche volta è successo, però sai cosa faccio? Per dire, mi trovo con mia moglie a fare la spesa a Città Mercato, roba del genere, allora ci fermiamo e ci prendiamo qualcosa da mangiare, ci fermiamo un po', ci mangiamo qualche cosa e poi ripiamo a casa, così non ce l'abbiamo anche in piatto. Vabbè, fatto una volta può capitare a chiunque anche di saltarlo il pranzo, però lui è un altro discorso, mi sa. Quello che fa lui fa anche male alla salute, quindi è una cosa diversa. Si dovrebbe far vedere. Diciamo che gli orari ce li abbiamo fatti noi, del pranzo, della cena e cose, lui ce li ha fatti a modo suo. Solo che non sai cosa c'è, il problema è che magari uno quando mangia tardi poi la digestione è quella che è, specialmente a una certa età, e per dire io mi suoceri che sono esagerati, che mangiano verso le 6, verso le 6 mangiano, fanno la cena, però dice che loro lo mangiano così per avere il tempo di digerire, non è che sia sbagliato. Sempre 4 ore ci vogliono, poi è molto dipendente da quello che mangi, ma non è solo una questione di gestione, ma anche di bioritmi, eccetera, eccetera. Quando si fanno un bioritmo così anomalo, vedi, perché scudire cose anche agli americani che a colazione si fanno le bistecche, però è pur sempre una colazione, no? Orario, perché quelle cose più che altro servono per regolarti l'attività anche fisica che fai, colazione abbondante la mattina, perché poi nelle ore successive stai lavorando, magari stai facendo sforzi, eccetera, quindi occorre quello. Poi a pranzo magari per recuperare per il pomeriggio, insomma è tutta una cosa un po' particolare, no? Se uno esce da quelle cose, insomma alla fine non stai tanto bene. Io la colazione la faccio poverissima proprio, mangio latte, mangio un cappuccino senza nulla dentro, capito? E mi metto due pastigliette di cosa? Di come si chiama? Dolcificante. E basta, tutto lì. Poi sto sino a pranzo senza mangiare. Tutta una tirata. Dipende dalle abitudini. Ognuno ha un po' le sue, quindi è una questione anche di regolazione. Ma se non sbaglio tu poi adesso non ricordo bene, c'è anche il problema con gli zuccheri, no? Sì, io sono diabetico. E quindi se posso evitare il pane, di metterlo è meglio. Il pane integrale dicono che sia la stessa cosa, c'è chi dice che invece ha meno zuccheri, non lo so se è vero, se non è vero. Io a me la dietologa che mi ha tradito ha detto che mangi 40 grammi di pane normale o 40 grammi di pane di cose, di segale o di quel pane integrale, che però non è mai integrale, dice che c'è giunto la crusca al pane normale. Ah, io ho visto una trasmissione, se aggiungessero solo la crusca saremmo felici e contenti, ma siccome questa natura, il vero pane, non è molto digeribile, no? Allora ci mettono additivi di tutti i generi tipi, però non nel pane, diciamo, mettono nella farina, quindi anche il fornaio quando la copra ce l'ha già con gli additivi messi, e essere praticamente la farina per non essere, come dire, per non guastarsi innanzitutto, per durare di più, per essere più morbida e anche magari più digeribile, però come diceva quello, se non muori di lampi muori di tuoni. Sì, poi tutte le cose bianche fanno male, farina, zucchero, insomma, lo zucchero quello è raffinato, lo raffinano con cose che fanno male la salute. Sì, il zucchero di canna sono trattato così così, va benino. L'altro, il destrosio dicono, non il destrosio, ma il fruttosio, volevo dire, il fruttosio è più digeribile, cioè dovrebbe essere più tranquillo, però non so cosa c'ha che la fatti lo fai, insomma, un casino, va. Se dovessimo guardare queste cose non mangeremo più niente, prima non c'erano i vegani, tutta io penso che mangiare normale e un po' di tutto senza esagerare non faccia male, anche perché se ci sono delle cose, degli additivi che mettono in più, se mangi poco ne mangi poco anche di additivo, se ne mangi un bel ti abbuffi anche del resto, quindi è una cosa che è da evitare proprio, perché tanto questi conservanti, queste cose da tutte le parti mi ritrovi, a meno che ti faccia la roba in casa come si faceva in vecchia era, che ho visto questo documentario che mi ha proprio affascinato, c'era questo tipo che viveva in questa casa rude, proprio una casa rude che faceva ferri per i cavalli, faceva tutti gli attrezzi, le pinze, le telaglie, la falce per la campagna, la frullana, proprio le costruiva lui, no? E in più c'aveva l'orto dove coltivava tutta quanta gli ortaggi, la frutta, eccetera, eccetera. E ha detto che c'era il periodo che non c'aveva gli ortaggi perché non era periodo e quindi non mangiava minestrone, se no faceva il minestrone, ma tu devi vedere come lo faceva, col fuoco di legna, proprio fatto in una maniera più contadina. Era affascinante proprio da vedere, e queste case di campagna, senza i mobili, ecco, senza tutto rude, tutto rustico. Sì, sì, se è fatto così va bene, però per andare bene deve essere fatto, molti si illudono, il pane me lo faccio io, poi prendo la farina dal panettiere, quindi siamo punto a capo. Se inizi da inizio proprio, se rifai tu anche gli ingredienti, sei a posto. Quindi coltivi il grano, te lo macini e poi ti fai il pane, allora sei tranquillo, ma se vai e ti prendi la farina non cambia niente, capito? Cambia solo la panificatura, quindi la forma del pane, la messa in forma, la cottura, però poi dunque gli ingredienti sono sempre gli stessi, no? Sì, lui aveva il grano, aveva tutto quanto, la moglie lo macinava con quelle, non so se è presente, quelle pietre rotanti grandi, lo macinavano così a mano. Una cosa allucinante, era tutto fatto così, vivevano proprio come i vecchi tempi, ecco, era un anziano, un uomo anziano, non era giovane, Però lui dice, se mi manca l'ortaggio a me, io non lo compro, non le faccio di minestrone, lo faccio solo quando è il periodo, io li pianto, quando crescono mi faccio un bel minestrone. È fatto così, fatto rustico proprio, cioè con le... con il fuoco lento eccetera eccetera, che così ci viene più buono. Sì, quella è l'unica cosa, l'unica cosa. Poi ci sono anche pararussi, no? Che tu ti fai la cosa di lì, magari sopra c'hai qualche fossetica o quelle cose lì, tu sei tranquillo facendo tutto genuino, tutto genuino. E dentro poi ci sono quelli batteri e chi fu la fioretta, perché anche quello è successo. Quindi non so se gli orti che ci sono in viale Portottore ce li presenti, lì passa la foglia, lì innaffiano tutti con la foglia e da poi vendere la frutta e la verdura al mercato. È veramente difficile poter dire, ma io mangio sano. E quindi bisogna sempre, come dire, mettere le mani avanti, perché non sai mai poi cosa stai facendo. Gianfra, ma la stessa aria non è sana, quindi poi fai che su tutti i piatti c'è aria inquinata e inquina anche le piante, per cui sei proprio, cioè diciamo che puoi fare qualche cosa, di fare a meno di qualche cosa, ma non di tutto, perché poi l'inquinamento c'è anche nell'aria. Sì, decisamente. Ma poi io ho una mia idea, secondo me ci stanno provando un pochettino, come si dice, detto in parole povere, le parti dietro, perché tutti stanno dicendo l'età, la prospettiva di vita è aumentata, però queste cose poi alla fine si vedono, si è aumentata o meno guardando il giornale, no? L'ultima paginetta dove ci sono quelle tante fotografie, inizi a guardare, 72, qualcuno anche di 60, qualche ragazzo anche pure di malattia, insomma ogni giorno c'è una media che secondo me dovrebbe essere tra i 70 e i 75, non oltre, se fai la media. Poi certo ce l'hanno tantenne, però insomma, no, non tutte. Quindi questa mania di prospettiva, aumento della vita, bisogna andare in pensione a 67, passa praticamente a 68 anni. Fai un giro di conti di 68, eccetera, la prospettiva di vita reale magari di 72 anni, tanto 5 anni di pensione dopo che sei a rischio proprio di partire. Secondo me è una grande presa in giro. È tutto calcolato, Gianfranco, cioè, è la pensione, da poi grippo, è un infarto e grippo, non se la goda nemmeno. E diciamo che può essere aumentata nei paesi dove mangiano tipo le zone del Cagliaritano, del Nuorese, dove mangiano roba genuina. C'è gente che ha 102 anni, 106. E ne hanno intervistato parecchi, quindi vuol dire che lì magari la roba è più genuina, mangiano roba di campagna, capito? Quelli che hanno intervistato è la gente che viveva in campagna. E dai, che cosa mangia? Adesso dicono tutti quanti che il grasso fa male, ha detto questo qui, questa qui che ha 106 anni, ha detto, dicono tutti che il grasso fa male, io mangiavo anche il lardo sopra il fuoco, lo facevo sgocciolare nel pane e lo mangiavo così e non mi ha mai fatto niente, mangiavo salsiccia, formaggio, le cose che facevamo noi, le galline, le uova, le cose che producevamo noi mangiavo, il resto non ce n'era. I fagioli bolliti, dice, i fagioli erano il pasto dei ricchi, ha detto, dei poveri, era la carne dei poveri, così ha detto. Perché allora, dice, si mangiavano molti fagioli, perché dice che avevano le stesse proteine della carne, eccetera. Sì, è vero, anch'io però era nella zona dell'Ugliastra, quelle parti lì, non era Cagliaristano esattamente. Tant'è vero che hanno aperto uno studio che è genetico, però, cioè praticamente quelle persone che naturalmente di lì, certo, va la grande, insomma, tutta roba che per i comuni mortali può fare il colesterolo a 4.000, no? Hanno, diciamo, dei geni che praticamente sopperiscono a questo tipo di alimentazione, quindi praticamente non hanno un colesterolo alto, nonostante mangiano degli alimenti che sono molto colesterolici. Infatti anche se non ricordo male, quelle provette che avevano rubate, che c'era stata una polemica qualche settimana fa, era proprio di quelle persone lì che avevano questo dono di, diciamo, di lunga vita, che è indubbiamente dovuto al territorio comunque, perché tu pensa a noi, adesso noi non siamo proprio nel peggio del peggio, anzi, vuol dire che siamo messi abbastanza bene, però circolando per Sassa, lì già tu respiri aria con benzene, e chi più ne ha più ne metta, mentre invece di lì quella gente che sta vivendo una vita rurale praticamente da ragazzini sempre di lì, non sono mossi addirittura, quelli indubbiamente c'hanno i comuni più pulitti, c'hanno tante cose che noi non possiamo avere, non potremo mai avere in una città, e quella è la vera differenza. E quando loro girano a cavallo, girano con l'asino o col bue, quello non inquina, e quello che fa lo utilizzano per coltivare la terra, quindi non è niente perduto. E lo so, una vita diversa, una scelta di vita diversa. Poi esci che vado già fra, se no Fizzoci non ce ne arrivano. Ci sentiamo, dai, mi ha fatto piacere queste ore. Ti saluto e sto andando a ordinare, se no poi stasera non vendiamo pizze. Ciao Gianfra, ci sentiamo. Ok, buona pizza allora. Io mi sposto su un altro canale perché magari fa un fastidio che faccio delle prove, che ho disabilitato quello a fare, il amplificatore, quindi adesso lo provo, vediamo un po' cosa succede. A più tardi, ciao! Ciao Gianfra, non penso di riaccendere Luigi, c'è urgente, quindi non ce la faccio. A domani magari, ciao! Ok, ciao, buona serata. Aspetta, ciao.